fatti bene, pochi colori temi che permettono anche colori temi non direi, perché la scritta è rosso in disca, sì, sì, infatti non so cosa intenda tu per te rosso, per esempio sopra dove c'è clicca qui che fa tipo flash. Un'insegna di farmacia, per esempio, che dà un pochettino, cioè come si dice, fa stancarlo, però in generale l'impostazione, il bianco e il blu, ora diventa leggero. Perché ha visto che si dava fastidio. Voi due siete, scusate, mi ricordo poco. Gardani e? Mattia, giusto. Roberto Mattia. Vai avanti, Giorgio. Niente, mi sembra. Le immagini mi sembrano ognuno al proprio posto, cioè non ci sono immagini che per esempio, cioè ogni notizia c'è un'immagine di riferimento che probabilmente se si clicca adesso vedremo quello. Io non ho detto di cliccare, ho detto la prima impressione a naso. Wow, sì. Proprio. Allora non cliccheremo. Comunque quella è l'unica cosa che io trovo seccante la Repubblica, prima il banner pubblicitario e poi vai ad altri quello che ti dà. Tengono famiglia. No, per carità, lo so che comunque la questione di imprese pubblicitari, non lo metto in dubbio, l'unica cosa per gradevoli è solo quella. Poi tra virgolette è gradevole. Il prossimo li apriamo di qua. Allora. Alcune cose, appunto, internet, come abbiamo detto, aspettiamo che aprino loro così iniziamo anche un po' a chiudere il cerchio. Scusatemi, date i nomi. Luca, sì, giusto. Luca, andava bene quello che mi hai mandato, te l'ho risposto ieri. Caro, allora, il fatto che Repubblica.it possa contare su statistiche di accesso enormemente vantaggiose e di record rispetto ad altri siti di informazione giornalistica o altri giornali online, poi dobbiamo fare una differenziazione tra quello che è un giornale online e un sito di informazione giornalistica. Un giornale online ha una redazione online, ha un gruppo di persone che lavorano a creare un giornale, ha una testata, si chiama Repubblica.it, non si chiama Repubblica, sono due cose diverse. Non è che lo potevano chiamare tranquillamente la Repubblica, dall'indirizzo online sarebbe stato .it e poi chiamare la testata la Repubblica, ma è diverso, perché c'è un direttore diverso, una redazione diversa, anche per le ragioni sindacali che vi avevo accennato, se non ricordo male, la prima lezione, cioè hanno dei contratti completamente differenti rispetto a quelli dei giornalisti che lavorano nell'edizione cartacea. Quindi giornale online vuol dire che tutte le persone che sono inserite in questo contesto lavorano, diciamo, in modo professionale comunque un giornale online. Sito di informazione giornalistica significa che è un sito che fa informazione giornalistica, molte volte non le fa autoprodotte, come è il caso di questa realtà, di questa testata. Prende dei servizi, prende dei contenuti e li mette in rete, a parte qualcuno che si può anche produrre. La differenza è proprio la testata registrata, anche se anche qui c'è un grande dibattito, una grande discussione su come ci si debba registrare, eccetera, perché corre la tecnologia, corre molto meno la burocrazia, anche quella degli ordini professionali. Quindi dicevo, Repubblica.it può contare su un'enormità di contatti rispetto agli altri competitor. Diciamo che avere un milione di accessi al giorno, di visitatori, scusate, al giorno, non è cosa da poco. Voi sapete la differenza tra visitatori, accessi unici, pagine viste. Penso che sia di vostra conoscenza. Se non è di vostra conoscenza, chiedete oppure cercate. Il discorso del perché è una pagina così ordinata o disordinata, comunque una pagina così piena di cose, un home page, su questo credo possiamo essere tutti d'accordo, è un home page dove c'è di tutto. Sul discorso dell'accessibilità, mi spiace Giorgio, ma è tutto meno che accessibile questa pagina, perché è questo sito, perché ha dei flash, perché ha delle... No, questo abbiamo detto che è privato, mi spiace per gli altri. Allora, Doriana e Giulia Viviani. Giulia Viviani. Proprio perché io mi posso permettere di sistemare tante cose, non ho bisogno di dover curare in modo particolare l'essenzialità o evidenziare qualcosa. Posso assolutamente mettere una serie di materiali. Se voi avete notato, da quando noi abbiamo aperto il sito, l'unica cosa che è stata aggiornata è il cambio delle pubblicità. Non è cambiato nessun testo. L'ultimo aggiornamento vedete in alto sulla destra, che è sempre alle 8.51 e sono le 9.04 al mio orologio. Quindi quello che dovrebbe essere un sito online, quindi il discorso della tempestività, non si può pretendere che aggiornino virgola dopo virgola, però così come c'è questo router di banner pubblicitari che continua a girare, ne abbiamo già visti tre, abbiamo visto Tisca, abbiamo visto quello di Amsterdam, ora vediamo la festa della mamma, e in alto c'è John Ashfield, prima ce n'erano degli altri, eccetera. Così come gli spot, quelli che se noi passiamo il mouse sopra quello della Renault, ci si apre. Proviamo. No, in questo caso no, però, sì, però di solito spunta da solo. Cioè, in questo primo scrolling, che non è uno scrolling, di apertura dell'home page, abbiamo tre spazi pubblicitari, diciamo, ufficiali, e due spazi di pubblicità corporate, cioè lo spazio in alto a destra con tutte le voci editoriali del gruppo, e non è una cosa vaga e messa lì per caso, perché come vedete viene dato lo stesso rilievo a Repubblica.it quanto al Fantacalcio o al DJ, quindi è una scelta editoriale forte per fare in modo che comunque quel mondo venga visto. Così come la testata del search è fatto sulla base che viene fatto con un motore di ricerca Yahoo, è fatto usando servizi che Repubblica.it dà, cioè servizi che poi sono a loro volta pubblicitari, come quello dello shopping, degli annunci. Quindi, se noi dovessimo scegliere una parte percentuale di questa prima parte dell'home page che vediamo, avremmo da scoprire in modo abbastanza sorprendente come quasi il 20% di questa, o se non di più, di questa prima immagine è composta da pubblicità o da messaggi pubblicitari diretti o indiretti. E stiamo parlando di un giornale online. Nessun giornale tradizionale si potrebbe permettere di avere la testata, per quello dicevo se avevate il cartaceo, a parte le manchette ai lati della testata di Repubblica, che sono pubblicitarie. Il resto della pubblicità è posizionato in basso nei giornali, è posizionato a piede di pagina. Quindi la prima differenza grossa, sempre che vogliamo fare dei paralleli tra giornale tradizionale e giornale online, cosa che sconsiglierei di fare perché stanno proprio prendendo strade completamente diverse, ed è giusto che sia così perché sono pubblici profondamente diversi, non tanto come persone quanto come momento di fruizione, perché la stessa persona che legge il giornale cartaceo poi non per questo non va a leggere il sito, perché vuole comunque continuare nel percorso della giornata a essere informato, approfondire alcune situazioni. Questo è il primo esempio che abbiamo immediato per quello che riguarda la prima pagina, diciamo, da sfogliare di questo giornale elettronico. È giusto, il menu è diviso in sezioni, come è diviso quello di un normale giornale, ed è efficace poterlo individuare subito. Io da lì posso andare direttamente in una parte del giornale online. È molto schiacciato tra tutto il resto della pubblicità, però anche qui si conta molto sulla fidelizzazione del cliente o dell'utente. Si sa che lì trova il menu con la barra, con le sezioni, e lì andrà. Quindi io posso anche inserire moltissima pubblicità che sia fatta a flash, che sia con filmati, che sia animata, banner che cambino e ruotino in continuazione, tanto so che l'occhio ormai è abituato ad andare a guardare in due punti che sono in alto a sinistra, diciamo non proprio in alto, comunque a sinistra la prima notizia, e a volte la curiosità posta dalla foto. Anche la foto di questo fotografo che mette migliaia di persone nude in piazza non è una cosa che naturalmente potremmo trovare in una prima pagina di giornale cartaceo, non per una questione di pudore, ma per una questione proprio di possibilità di fotografabilità, quello che è, delle cose. La stessa foto grande degli incidenti a Parigi ha più o meno le stesse dimensioni della foto di questi signori in posa, diciamo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che io do un'evidenza all'immagine tale per cui voglio incuriosire il pubblico, in un certo senso, voglio incuriosire l'utente al punto tale da considerare sullo stesso piano due notizie enormemente diverse per valore e per interesse. Detto questo, c'è il ragionamento da fare sulla scelta delle notizie stesse. Ormai la notizia che Sarkozy abbia vinto le elezioni è risaputa, lo sapevamo ancora prima che si facesse il ballottaggio, ma al di là di quello lo sapevamo alle 20.01 di ieri. Un giornale online si prende l'autonomia di andare oltre, di leggere la notizia attraverso gli accadimenti successivi. Si dà per scontato, sbagliando, che ormai il lettore tradizionale alle 9 abbia già visto il giornale cartaceo, abbia già seguito i telegiornali, abbia già, e quindi noi possiamo considerare più importante la notizia degli scontri alla Bastiglia piuttosto che la notizia delle elezioni. A parte il fatto che da un punto di vista giornalistico questo atteggiamento è profondamente sbagliato, perché nessuno si può arrogare il diritto, questa è una mia valutazione personale, è anche tecnica se volete, ma è più personale che tecnica, nessuno si può arrogare il diritto di decidere che è più importante il voto di 50 milioni di persone rispetto all'episodio che ha visto coinvolte 200-300 persone. Però l'online ti giustifica, cioè, ma io do per scontato che questa sia una notizia che tutti sanno che sta così, ma non sanno che nella notte c'è stata la guerriglia urbana non solo a Parigi ma anche in altre città, e quindi io mi sento autorizzato a mettere una fotografia di immagini, l'immagine piuttosto anche forte, che mi spinge subito ad andare a cliccare su quella foto. Addirittura andare a cliccare forse più su scontri a Parigi e in altre città che sull'era di Sarkozy, perché io credo alla immediatezza dell'online, del giornalismo online, e quindi sono disposto di più ad andare a vedere cosa è successo nell'ultimo momento, nell'ultimo secondo, in modo da poter avere l'ultima informazione, da poter gestire l'ultima informazione. C'è da dire che, come in tutte le redazioni, ci sono turni di lavoro sulle 24 ore in questo caso, e non come nelle redazioni in altri orari, dove chiaramente in redazione a quest'ora a Roma a Repubblica.it ci sono meno persone rispetto a quelle che ci saranno allora nel pomeriggio o in tarda mattinata, per cui gli aggiornamenti sono più lenti, per cui anche da un punto di vista delle scelte magari non ci sono i vertici redazionali. Questa è una scelta che è stata fatta stanotte, sarà stata aggiornata una volta stamattina presto e poi verrà riaggiornata tra un po'. Se io provo a riaggiornare, vedete, siamo sempre alle 8.51. Quindi la capacità del giornalismo online influire molto di più sull'emozionabilità rispetto al giornalismo tradizionale è resa evidente da questi esempi. Se noi andiamo a cliccare sulla fotografia, si aprirà ovviamente ancora delle immagini, vedete, una fotografia su Stop Sarko, eccetera. Sono notizie che troviamo anche sui giornali cartacei di stamattina, però non le abbiamo nello stesso modo. Abbiamo, vedete qua, per andare all'articolo c'è prima lo spazio pubblicitario, per una ragione proprio. Avrebbe avuto molto più senso, molto più logica aprire con questa notizia. Però qual era il problema? Il problema sarebbe stato che avremmo visto, non avremmo visto, c'era chi poteva considerare il sito vecchio. Stiamo parlando di una notizia di poche ore fa, però vecchio, superato, perché l'online, io pretendo dal giornale online che sia, che mi dica già come sarà vestito Sarkozy quando si presenterà all'Eliseo la prima volta. Pretendo non solo di essere in quel momento, ma di essere lì, di essere addirittura oltre la notizia stessa. Per cui torniamo a un punto. Per cui da questo punto di vista abbiamo già in 20 minuti scoperto alcune cose. Che il giornalismo online in realtà esiste e non esiste, nel senso che se è online ci deve essere una regola per cui l'aggiornamento sia non dettato dagli eventi e basta, ma sia doverosamente metodico. Ogni 5 minuti, ogni 7 minuti, ogni 10 minuti la pagina viene riaggiornata. Basterebbe poco, ma nessun giornale online vi garantisce questo, almeno in Italia. Non ve lo garantisce perché altrimenti tu andrai a guardare solo ogni 5, 7, 9 minuti. Invece in questo modo tu stai sempre lì, perché l'aggiornamento ci potrebbe essere da un momento all'altro e quindi vedi la pubblicità. Nel frattempo, mentre aspetti l'aggiornamento, vai a cliccare su una rubrica, su un'altra cosa. E più stai, più navighi, più frequenti il sito, le statistiche portano in alto la presenza e la frequenza, e quindi questo ha un valore poi per il mercato pubblicitario. Si ritorna sempre lì, vale per il discorso dei giornali tradizionali e vale anche per quelli online. A proposito del discorso pubblicitario, scusate, a proposito della questione pubblicitaria, come avrete notato, se voi avete occasione di leggere i giornali, mi auguro di sì, facendo scienza della comunicazione, anche la pubblicità sui giornali è cambiata, no? Non è più il piede di pagina, la mezza pagina, la pagina intera, la trovate sistemata dentro gli articoli, laterale, su più pagine, fatta in modo diverso, attaccata addirittura ai giornali con degli adesivi. Perché? Perché in questo la fantasia degli uomini di marketing ha portato a considerare la mobilità del giornale, cioè rendere il giornale cartaceo qualcosa di visivamente mobile. Non solo negli articoli, non solo mettendo fotografie più grandi o tagliate in modo diverso, non solo usando gli infografici, ma anche muovendo la pubblicità. In questo ha copiato un pochettino l'apporto che veniva da internet. Internet però è esagerato adesso, perché voi vedete che abbiamo una quantità di pubblicità che è indubbiamente preponderante o comunque indubbiamente capace di rendere o molto disordinato, nel senso che dici non capisco dov'è la pubblicità, dove sono le notizie, oppure molto ordinato perché dici io so dov'è la pubblicità, perché in quegli spazi così grandi che mi permette di evidenziare subito dove sono le notizie. Quindi capisco entrambe le posizioni del disordine e dell'ordine. Di sicuro non si può negare che c'è una forte quantità di pubblicità. E stiamo soltanto nella prima parte dell'home page, perché se poi scendiamo, quella che è visibilità diventa addirittura commistione, se non qualcosa di più. Vedete, sulla destra le rubriche di meteo, borsa, oroscopo e sudoku non sono solo rubriche, sono anche servizi. Il sudoku lo puoi avere anche sul cellulare, se paghi un abbonamento e lo puoi avere. Allo stesso modo, la stessa grandezza, lo stesso vale poi per i servizi di borsa, perché poi per avere servizi ulteriori ti devi, se non abbonare, registrare un sito. Per registrare dovrai avere accesso a delle informazioni o potranno avere accesso alle tue informazioni chi le avrà. Così come la grandezza del banner o comunque dello spazio della finestra dedicata alle rubriche meteo, borsa, oroscopo e sudoku è identico a quello della pubblicità successiva dell'MSC Orchestra, gioca e scopre la nuova ammiraglia di MSC Crociere, gioca, dove non c'è scritto che è un'inserzione pubblicitaria. Ok? E scendendo ancora abbiamo Genertel, e scendendo ancora abbiamo la PlayStation, che non è un articolo di giornale, presumo, gli hotel dell'Emilia Romagna, le agenzie immobiliari turistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo soltanto, poi vedete, poi sotto abbiamo di nuovo giornalismo, gli speciali dell'economia, che sono chiaramente, se ne aprissimo uno a caso, apriamo quello, che so, della casa, noi troveremo che anche per quello che riguarda, vedete in alto l'URL Guide Finanza Repubblica, c'è di nuovo del giornalismo, perché ci sono delle rubriche interessanti con delle pubblicità mirate sul tema. Ma non è finita, chiudiamo questa finestra e torniamo giù. Dopo quello che erano queste rubriche, chiamiamole così, dopo c'è scritto siti sponsorizzati, come se quelli prima non lo fossero. Stiamo parlando di un giornale online che è il più serio e il più navigato d'Italia. Stiamo prendendo l'esempio migliore, quindi immaginate il resto. Per dirvi quanto è totalmente, non tanto la confusione, è proprio la mancanza di regole, ma di regole non solo perché vengano dettate da una legge, di regole date dal fatto che non ci sia una logica nelle cose che si propongono, perché è talmente tanta la fame di internet, è talmente tanta la voglia di essere online, che non ci si ferma a capire che cosa si sta guardando. Se noi giriamo, abbiamo guardato la colonna di destra, che è una notizia, che è una colonna solitamente interattiva, questa è una pagina fatta in modo diverso rispetto a quelle che abbiamo visto degli enti locali sabato. Qui non c'è la logica di fare colonna sinistra istituzionale, colonna destra interattiva e al centro le notizie o i servizi o gli elementi su cui si ragiona, perché qui non c'è bisogno di istituzionalità, qua non si deve dire chi è e chi non è, anche se dalla prima pagina, dalla home page non troverete il nome del direttore della testata e dei responsabili di redazione. Questo è grave per un giornale come Repubblica.it e lo è ancora di più per tutti gli altri che non lo fanno. Fate fatica a trovare qual è dove poter parlare con la redazione. Se noi andiamo sulla sinistra abbiamo la colonna, parte un po' più in basso perché appunto non c'è bisogno di avere oppure non si vuole mettere tutta la parte istituzionale, c'è un richiamo a quello che è il giornale in edicola, con anche qui un servizio clienti, un archivio che sono servizi a pagamenti, clicca qui per stampare il pubblico oltre un minuto, esattamente allo stesso modo, i servizi via Palmare o via WAP, e poi tre blog, o comunque i blog dei lettori, crea il tuo blog, che è la questione per cui vi ho detto le piattaforme, i templates dei blog vengono messi a disposizione ormai da tutti, perché questo crea comunque un mondo a parte, perché poi su questo blog, se tu lo fai sul template di Repubblica, potrai mettere alcune notizie che ti arrivano, alcuni flash di di informazione, potrei avere dei servizi particolari, potrei essere selezionato tra i blog dei lettori, per cui andiamo ancora giù. Un'altra commissione, offerte di lavoro da mio job, che è una vecchia realtà di Cataweb, poi infatti c'è Catamail, telefono a risparmio, i numeri di Supertoto, e poi di nuovo i supplementi, che sono materiale giornalistico, i periodici, che è pubblicità, a quelli del gruppo L'Espresso, giochi, poi delle rubriche ancora diciamo a metà tra il pagamento, eccetera. Se noi clicchiamo in fondo nei credits sulla redazione, ah no, ce l'hanno messo da poco, la gerenza, c'è la gerenza del giornale e la gerenza del di Repubblica.it. Come vedete è esattamente uguale il tipo di sono tutti giornalisti professionisti questi che lavorano a Repubblica.it e danno una non solo tantissimi, però poi ci sono tante altre persone, questi sono quelli che più di altri lavorano sulla diciamo a coordinare le varie redazioni. Come vedete, la prima, poi ovviamente non l'abbiamo visto tutto perché poi c'è la parte che riguarda il multimediale, e cioè Repubblica TV e Repubblica Radio, a volte quando c'è un personaggio, un ospite di particolare importanza, viene messo come finestra in alto, come una delle principali notizie, perché in quel modo poi viene rilanciato la forza di un gruppo editoriale come quello di Repubblica Espresso, che poi se voi comprate Repubblica c'è scritto oggi su Repubblica Radio, c'è questo, il sondaggio lo trovate su Repubblica.it, è tutto ovviamente una sinergia, da questo punto di vista ci mancherebbe altro, è normale che sia così. Grande spazio viene dato alle immagini, qui ancora è cambiata la pubblicità con Infostrada, sotto Infostrada ci sono tutta questa serie di icone fotografiche che aprono e interessano, sono tra l'altro tra le pagine più cliccate proprio perché, come vedete, mischiano notizie a rimandi anche qui a iniziative del gruppo editoriale, degli altri giornali, eccetera. Quindi è vero che è ordinato, come dice giustamente Valentina, è vero che è disordinato, come dice Stefano, perché proprio perché c'è talmente tante cose dove trovare le notizie in realtà non è fondamentale, è fondamentale far passare il tempo al lettore, perché è talmente ricco di cose. Voi sapete che il lettore di un giornale cartaceo non utilizza più di una ventina di minuti per leggere il giornale, le statistiche dicono che sia appunto di 15 minuti la lettura, per quello che poi è nata la Free Press, che è fatta in modo che venga letta tra quattro fermate alla metropolitana, quindi per la durata di un quarto d'ora, e perché è quello il tempo che una persona normalmente dedica alla lettura dei giornali. Qua, se non ha problemi di costi personali dell'abbonamento della rete, qua uno può stare su questo sito senza aver bisogno di andare su siti che non siano di giornale online, ma che siano siti di gossip, non ne ho bisogno perché sono lì, siti di ricerca di lavoro, non ne ho bisogno perché qui ce l'ho, siti di sport o di musica, perché devo andare, ho qui DJ, passo da qui, eccetera, e trovo i passaggi. Riesco a coprire tutto un mondo che è potenzialmente o anche in modo studiato il mondo di riferimento di chi usa e studia e lavora su internet. Quindi il fatto che noi ci troviamo di fronte a una realtà assolutamente unica nel panorama editoriale italiano l'abbiamo dalla potenza di fuoco che questo giornale online può mettere in campo, cioè proprio dare una immagine di impatto, perché avete visto non siamo ancora entrati in nulla, un'immagine di impatto così forte, così completa, che poi venga vista, ripeto, in modo disordinato, ordinato, accessibile o non accessibile, diventa secondario. Nessuno può negare il fatto che ci sia tanta roba, detto in buon italiano. Quindi la scelta è quella del tanto. Adesso vediamo il come. parlate voi, come vedete i testi, cosa scoprite dei testi, a parte il discorso sulle fotografie che abbiamo già detto. Vai. La situazione di un'università si vede lente, è stato un blocco all'altro verso link, non sono più testi lineari, ma sono i testi, sono proprio tendenti. Poi i colori diversi, per esempio il link è fatto, cioè, con un colore diverso, c'è la scritta per evidenziare il passaggio. Dà molto spazio a ulteriori foto, video, multimedialità e infilato un po' sogni e righe. Volevo sapere sul testo, testo che cosa trovate da dire. Un'anteprima dell'articolo, poi si sviluppa su clicchi. Ma non è un'anteprima dell'articolo, magari. Se voi ci pensate era un po' quello che diceva all'inizio Giuseppe, giusto? Sì. Hanno aggiornato, alle 9.27 dopo mezz'ora hanno aggiornato. Qual è il titolo ormai? All'inizio. L'unica cosa che hanno cambiato qual è? La foto nudi e nudi. È evidente. Anche i 24 ore dell'ACI. No, quelli scorrono. No, è rimasto fermo. È rimasto fermo. Quando l'ultimo aggiornamento. Anche alle 9.14. Sì, la notizia. Ecco, vedete, il fatto che si sia cambiato in mezz'ora soltanto una delle notizie, perché l'altra delle 8.48, diciamo, dei flash di agenzia, e che si sia cambiata la foto di questo, chiamiamola artista, diciamo, eviterei di andarla ad ampliare. Dà l'idea di come in realtà non ci sia ancora nessuno in redazione, perché il servizio che lavora sull'AGI viene preso appunto dall'AGI, che è l'Agenzia Giornalistica Italia, che è una cosa che nulla ha a che fare con Repubblica, è un servizio comprato, ma da un punto di vista di redazione non è cambiato il testo, per fortuna in questo caso, perché volevamo fare un discorso sul testo che troviamo in questa prima parte di home page. Allora, proprio da un punto di vista di italiano, i testi che sono... Non c'è un verbo. Eh? Non c'è un verbo. Tutto... Allora, vieni qua tu, le dici tu. No, giusto, hai ragione. Non sono testi in italiano, sono parole. Sono parole che aprono al mondo. Ha perfettamente ragione quello che diceva lì. Ha scoperto il trucco. Il trucco è proprio che non sono testi. Una volta lo erano. Una volta lo erano quando si è iniziato a scrivere il giornalismo online, ma oggi il testo è una perdita di tempo, soprattutto se ho necessità di mettere tanta roba, come dicevo prima. Cioè, io ho soltanto nemmeno da mettere delle didascalie, delle fotografie, non faccio nemmeno quello, perché le didascalie, le foto non le hanno. La didascalia è semplicemente la possibilità di cliccarci sopra e di aprirla. Perché succede questo? Succede perché do per scontato che se faccio perdere tempo su una cosa, su un articolo, su parole, non ci sarà l'approfondimento, e se non c'è l'approfondimento non c'è il passaggio dal banner pubblicitario. Se non c'è il passaggio al banner pubblicitario, ho il costo contatto che io posso far pagare al signore, che sarà in questo caso, andiamo alla notizia sotto. Ah no, questa no, perché non è più, vabbè, l'Austria ai tuoi piedi, che è sulla destra, dico guarda che per aprire questa cosa tu avevi questo bannerino piccolo, hanno aperto nella giornata 150.000 volte e quindi tu mi devi 10 euro. Perché poi i costi della pubblicità su internet sono ancora molto bassi, sono costi a contatto, e sono costi che sono statisticamente rilevabili, a differenza di quello che è il giornale online, dove uno non può andare a chiedere al bar, tu hai guardato l'articolo ma hai guardato anche la pubblicità, qua hai sfogliato quella pagina, qua hai per forza sfogliato quella pagina, quindi hai lasciato un cookie, hai lasciato una traccia, quindi sei puoi pretendere di essere pagato per quel servizio. Quindi c'è in primo luogo un discorso pubblicitario, in secondo luogo un discorso di tempi. Se io faccio perdere troppo tempo in home page non si navigherà e non si rischia di essere troppo lunghi, e quindi nella frenesia di vedere le cose di perdere il vantaggio a favore di un altro sito, di un altro giornale online. La terza cosa è perché io voglio dare più valore a quello che è immediatamente vendibile, cioè le fotografie, le immagini, i filmati, i commenti fatti dai lettori, i forum. Vedete in fondo alla terza notizia, che è una lettera che c'è oggi in prima pagina di Repubblica, scritta da un lettore a Corrado Augias, che dice: sono di sinistra, sto diventando razzista. Sotto, che cosa fa Repubblica.it? Riporta la notizia, ma la sfrutta per aprire un forum. Se noi andiamo a cliccare sul forum, ci sarà un forum nel quale dice: oggi è stato detto che, vedete? Solo che finora l'autore è la redazione di Repubblica, ci sono già state 35 consultazioni e l'ultimo messaggio è delle 7:37. Cosa significa questo? Che finora nessuno è voluto entrarci dentro, non ha voluto parlare, perché è presto. È una cosa che, se voi oggi pomeriggio andrete a riguardarlo verso le 4, scoprirete che nella pausa pranzo molti lettori, cioè persone che lavorano in ufficio, sono andati lì e hanno detto la loro. Ci sarà un picco, il picco della lettura dei giornali online è quello che va dalle 13 alle 15 e dalle 16 alle 18, cioè gli orari di pausa e gli orari di chiusura degli uffici. Ma picchi di differenza 1-100, non di differenza 1-2. Proprio perché teoricamente durante il resto delle ore le persone lavorano e quindi non devono poter vedere cose che non siano elementi di lavoro. Allo stesso tempo, per gli studenti o per eccetera, sono cifre ancora ridotte, sempre per la possibilità di accesso alle aule, perché poi devono seguire le lezioni eccetera. I pensionati non vanno su internet ancora, anche se avrebbero più tempo, e quindi non sfruttano queste ore in cui, quindi c'è un carico di lavoro, un carico di aggiornamenti anche in quelle ore. È una cosa che potete verificare: i giornali online vengono aggiornati moltissimo nelle ore in cui è maggiore il traffico. È ovvio, una legge di mercato, viene fatta proprio studiando le statistiche, gli accessi, i cookies che si lasciano in giro sono la fortuna di internet e la disgrazia di chi naviga su internet. Ve l'ho già detto nei giorni scorsi, nelle altre volte che ci siamo visti, è fatale proprio per questa ragione, perché sanno tutto di voi e quindi sanno benissimo. Qualcuno sta dicendo: ma per quale motivo da quel server oggi arrivano 30 visite ferme per così tanto tempo? Perché ci sono in un'università, ci stanno studiando, lo vedono. Cioè, se vuole, chi cura le parti delle statistiche del sito capisce che noi stiamo studiando questo sito in particolare. Allora, torniamo indietro qua. Nessuno ha quindi scritto al forum. Torniamo alla prima pagina. Abbiamo detto parole. L'era di Sarkozy, all'Eliseo con il 53% dei voti, scontri a Parigi e in altre città. Francia, affluenza record, per il nuovo presidente neopolista, festa in Piazza della Concordia, anarchici in Piazza della Bastiglia, automobili bruciate nelle periferie. Tensione a Tolosa, Lione e Napoli. Solo bruciate, l'unico verbo, non ce n'è praticamente altro. E poi ci sono i commenti che ci sono sul giornale: il miracolo mancato di Segolendi e i Valli, e dopo la sconfitta socialisti divisi. Ma poi allo stesso tempo ci sono ancora con maggiore evidenza, perché vengono scritti in maiuscolo, il fotoracconto e lo speciale interattivo per i risultati. Quindi il valore della parola viene messo in discussione rispetto al valore dell'immagine, della grafica, dei contenuti che sono multimediali. Allo stesso tempo, quello che dice Sarkozy, che stringe le mani a dei sostenitori, è contenuto sì in 4 righe, ma soprattutto è contenuto in 2 video, in un ritratto su chi è Sarkozy e poi le foto e Cecilia in serata compare sul palco. Cecilia, voi sapete, chi è? La moglie che dicono che eccetera eccetera, quindi il lato gossip della vicenda salta fuori, cioè questo qua è diventato Presidente della Repubblica e dice allora adesso ha fatto pace con la moglie. Non c'è logica giornalistica nel mettere sullo stesso piano le notizie, così come non c'era nel metterla sulla questione degli incidenti, troppa disparità di forza tra le due notizie. Però, e poi ci sono due commenti italiani che sono le parole di Prodi e quelle di Berlusconi. Una notizia che fino a ieri aveva particolare evidenza era l'apertura dei giornali di tutti i quotidiani di domenica, era quella degli 8 morti all'ospedale di Castellaneta, diventa inevitabilmente purtroppo una notizia secondaria, una notizia diciamo nemmeno di taglio. Vedete che la differenza anche tra un giornale online e un giornale tradizionale è dato dalla titolazione, dalla evidenza della titolazione. Un titolo di un giornale, l'apertura di un giornale è almeno un carattere di corpo 72, 84, 60, 68, a seconda, però insomma bello e lungo. Qua la differenza è tra un 20 e un 18, tra un 22 e un 18 mi sembra, quindi molto meno. Io devo mettere cose, non devo evidenziare una notizia più dell'altra, io devo mettere a disposizione del navigatore una serie di elementi, tanto più se sono multimediali. Quindi non devo forzare un titolo rispetto ad un altro per una ragione principale. Qual è la ragione principale? Perché il lettore perde... Perché occupo spazio, perché occupo spazio. Perché se faccio una cosa troppo grande, se faccio una O, Sarkozy, grosso così, vedo solo Sarkozy, non vedo più la pubblicità, non vedo più i video, eccetera. È semplicemente una questione di affollamento della pagina. Fino a che non inventeranno i computer che si aprono manualmente, se vuoi vedere una cosa, di schermi, sarà sempre così, sarà tutto più compensato e tutto più adeguato alle stesse dimensioni. Tant'è vero che se noi vediamo le notizie che ci sono sotto, sono messe tutte con la stessa grandezza, e chi può dire qual è la più importante? Solo il fatto che sono messe in un ordine queste quattro notizie, forse, però non c'è un'evidenza in più rispetto ad altre. Ed è un po' la cosa che succede dall'altra parte con le fotografie e con diciamo la colonna delle immagini, non, a parte l'elenco che uno è prima e gli altri sono dopo, non c'è una scelta particolare. Avete voi delle osservazioni da fare? Prima facciamo qualche paragone con altri giornali online. Vi è tutto chiaro? O mentite molto bene, o io sono stato veramente chiaro. Proviamo ad aprire, e qui c'è anche una questione di piattaforma. Vedete che c'è scritto siti. Cosa vorrà dire siti? Saranno probabilmente i siti dei due candidati. Andiamo a cliccare. Esatto, è una rassegna stampa fatta attraverso i siti. Tra l'altro ne approfittiamo perché così vediamo un po' i siti dei giornali francesi. Ci hanno fatto un favore quelli di Repubblica. Come vedete, il sito di Libération è un sito ben diverso da quello di Repubblica, e tenete presente che stiamo parlando di un sito in Francia il giorno delle elezioni francesi, quindi un sito che deve essere al massimo della visibilità, dell'affidabilità, dell'aggiornamento e della cura delle notizie. La scelta è stata diversa, ed è una scelta, vedete, nonostante gli incidenti, qua la scelta è su Sarkozy. Liberazione è un giornale di sinistra in Francia, quindi poteva tranquillamente fare la notizia sugli incidenti, ha fatto la notizia sulla vittoria di Sarkozy e sulle sue prime parole. E come vedete anche il livello dell'affollamento pubblicitario è diverso rispetto a quello di Repubblica. Ma è attivo il sito? Eh? È attivo la pagina di Repubblica? No, in questo sito, in questo momento là, possiamo andarlo ad aprire da qui. Vediamo se è cambiato. Un po' più lento. Sono dimessi tutti, ecco, hanno cambiato la fotografia, però non è cambiato di molto rispetto a quello che vedevamo. Adesso facciamo una schermata, vedete, c'è lo stesso sulla destra l'elenco dei voti, eccetera. Stiamo parlando di un giornale di sinistra francese che non mette la notizia degli incidenti, e non per censura, per rispetto del voto. Questa è una cosa che dovrebbe far riflettere molto, anche qui andiamo più anche sulla psicologia del giornalismo e sulle tecniche del giornalismo, quindi vi dico cose che già sapete. Però per quale motivo nell'home page non c'è la notizia degli incidenti? Semplicemente perché viene visto più importante, storicamente importante, che ci sia spazio dato al nuovo Presidente della Repubblica, come sacrosanto che sia. Quella di Repubblica è una scelta politica, non è una scelta giornalistica, quindi del sito intendo. Si è voluto andare oltre perché, approfittando dell'idea, sono un giornale online, quindi voglio dire la mia, voglio farvi vedere che sono in diretta col mondo, vi dico che sta accadendo questo, che è una cosa grave. Liberation non lo fa. Andiamo avanti con questa è Le Parisienne, che è un giornale un pochettino più conservatore, abbastanza modesto come proposta, però vediamo se è stato aggiornato anche questo. Beh, poco, hanno addirittura una foto sola di Sarkozy, probabilmente. Però anche qui, questo è un sito molto pubblicitario, di nuovo, è anche molto brutto. Però vedete che non c'è nulla che riguardi gli incidenti. Andiamo avanti più rapidamente sulle varie prime pagine dei giornali online. Questa è Le Figaro, e anche qui vedete Le Figaro è un sito, magari questa è un'occasione speciale perché c'erano le elezioni, però questo lo avevo già visto come giornale online, ed è un giornale online dove non c'è praticamente, c'è molta poca pubblicità nell'home page. È una scelta molto italiana quella di costruire quasi tutti e di Repubblica in particolare, siccome Repubblica è molto copiata e molto seguita, sta facendo scuola, in questo caso una scuola negativa sull'affollamento pubblicitario, mancando una regola, non essendoci una legge, uno teoricamente potrebbe mettere il 99% di spazi pubblicitari, poi non verrebbe letto, non verrebbe navigato, però non esiste una legge sull'affollamento pubblicitario come esiste sui giornali, che voi sapete non può superare mai il 50%. Il Figaro ci mette un po' di più ad aprirsi, probabilmente anche perché ci sono molti accessi in questo momento sui giornali online francesi, perché in Francia lo testimonia anche l'affluenza alle urne, cioè stato. Eccoci. Come vedete, siamo. Ecco, qua ci sono gli incidenti. Notte di violenza in Francia, c'è. Figaro alla fine lo mette ben oltre sul prossimo, dice già chi potrebbe essere, qua dice guardate la vostra città e guardate com'è andata. Vediamo, andiamo come è andata a Nizza Sarkozy avrà preso il 75% dei voti. 65-34, come era evidente. Questo è un servizio semplice, efficace, senza particolari manie grafiche, però questo è un sito abbastanza completo, come vedete. Stiamo parlando di uno dei giornali, adesso ci facciamo le monde direttamente da qui senza vedere che cosa, che è un po' il giornale serio della Francia, e lo dimostra anche nell'edizione online, dove praticamente la pubblicità è nascosta a punto tale che non c'è, che non l'ho mai visto. Questo è un sito che sceglie di evitare o quasi la pubblicità. E anche qui sulla notizia degli incidenti non mi sembra, aiutatemi voi, ma non mi sembra che ci siano né immagini. Ok, questo lo dico non per criminalizzare Repubblica, ma perché ormai è diventata una mania italiana. Se noi andiamo sul sito del Corriere vedrete che c'è ugualmente la notizia degli scontri, un po' perché si guardano i due siti, però è la seconda notizia. Ecco, questo subito appare, c'è sempre questo problema, è sul Corriere la pubblicità che si apre, vedete? Questa è una condanna. È la seconda notizia, nessun giornale online francese l'ha fatto, stiamo parlando del Corriere della Sera. Molto dipende dalla chiamiamola necessità di controllarsi, di marcarsi, dei due giornali principali, sia sul mercato cartaceo che anche qui sul mercato elettronico. Però se andiamo anche sulla stampa troveremo ugualmente che c'è la notizia degli incidenti. Era fin troppo facile. Beccati, come si usa dire. Ma era solo perché è passato il mouse, non perché voleva vedere, certo. Vedete, questa giornata di oggi ci permette di vedere dal vivo delle differenze che sono enormi, veramente enormi, nell'approccio. E qui non è un discorso di linguaggi, non è un discorso di pubblico, non è un discorso di scelte editoriali. È proprio una questione di diversità di utilizzo del mezzo. È evidente che in Francia c'è un approccio al giornalismo online che è un approccio di approfondimento. In Italia c'è un approccio al giornalismo online che è un approccio di notizia. C'è questa diversità forte, perché non c'è un motivo per cui la stampa abbia, adesso esagero, il diritto di aprire con gli incidenti quando la notizia è un'altra. È anche notizia che ci sono stati degli incidenti di piazza, ma la notizia è un'altra. Questo è una cosa che dovete assolutamente tenere presente. Prego. Magari la notizia che veramente è fondamentale è aggiornata di un secondo piano, perché comunque rimane più confusa di quella. Se noi torniamo su Repubblica, purtroppo, io non ho le statistiche, ma possiamo chiederle, questa fotografia qui, di questi signori stesi al sole, sarà cliccata tanto quanto questa qui, se non di più addirittura? Perché dell'altra vedo la notizia, di questo voglio vedere se sono grassi, belli, brutti, eccetera. Quindi sono io che decido che cosa farti vedere. Non è la notizia che decide che cosa, se è più importante o meno importante. Adesso è chiaro che non è che prende la scossa se clicca la notizia sbagliata, è eccessivo dire non ha potere decisionale, sicuramente è condizionato. Ci sono delle possibilità di condizionare fortissime, enormi, totali, molto di più di quelle che ci sono in un giornale cartaceo, perché il giornale cartaceo comunque è composto di 40 pagine, la prima pagina è la vetrina e quella ci sbatti il naso per forza perché lo compri, dopo sei tu che dici vado subito a vedere lo sport, guardo cosa c'è al cinema, voglio vedere la pagina della cultura, oppure vado in ordine e allora in ordine c'è un condizionamento dato dal fatto che, come avete già studiato e voi sapete meglio di me, la terza pagina non è più in terza pagina ma è a pagina 36, la pagina della cultura, perché le pagine 2 e 3 vengono usate per il fatto del giorno e quindi io ti condiziono a fare in modo che ci sia una notizia più importante, cioè il fatto che le prime pagine del giornale, la prima sezione del giornale sia dedicata non all'attualità in genere ma a un specifico fatto che io decido come direttore del giornale sia più importante. Qua è diverso, non perché tu sei condizionato, obbligato a fare quello che ti dico io, ma io se ti metto una cosa curiosa in alto, una cosa diversa, per il poco tempo che tu hai a disposizione su internet lo dividerai mentalmente tra la notizia e la notizia curiosa. Tu non hai la possibilità di stare 8 ore davanti al computer a consultare internet, allora guarderesti tutto e lo faresti con metodo. Devi ragionare sul poco tempo che hai a disposizione e solitamente non vai su internet, vai su internet per tenerti informato, ma vai su internet per una serie di cose. Una volta che hai aperto il collegamento vai a vedere la tua posta, vai a aprire un'altra cosa, vai a scaricare qualcosa. Lo spazio che dedichi di quel collegamento all'informazione è limitato, per quella limitatezza lo dividi immediatamente tra quello che vedi. Adesso queste, tu non sei d'accordo? Perché dimmi. No, dimmi. Io ho possibilità di scelta, sono io che decido cosa guardare, cosa meno, cosa mi interessa, cioè ho molte opzioni possibili. Invece un giornale cartaceo sono quelle, è limitato. No, io stavo parlando, ho capito cosa vuoi dire, ma io stavo parlando di costruzione del giornale. Non è chiaro che più, oltre le 40 pagine non c'è niente nel giornale, qua apri il mondo e vai. Io sto parlando di impatto. Nell'impatto io ti posso condizionare molto di più su un giornale online rispetto a quello che è un giornale tradizionale, perché io nell'home page ti metto quello che voglio, sta poi alla tua possibilità di tempo andare a cercare, a navigare, poi può essere veramente all'infinito. Ma nell'immagine iniziale sono io che scelgo una, due cose e appunto do più notizia alla foto di questi qua nudi per strada rispetto agli 8 morti di Taranto. Non metto le notizie di far vedere le valvole cambiate dell'azoto o dell'ossigeno, perché che cos'è? Lo so, hanno cambiato i tubi, ma questi qua mi incuriosiscono. La notizia, il valore notizia è chiaramente diverso, il valore notizia non è paragonabile tra gli 8 morti e questi qua, però, e non posso metterlo su un giornale cartaceo in prima pagina più grandi questi qua stesi per strada rispetto agli altri, per una questione di, ma non di buon gusto, ma per una questione di logica giornalistica. Qua lo posso fare, perché? Perché la possibilità di aggiornare, dice sì vabbè, ma Taranto ieri l'aveva messo grosso, poi abbiamo fatto un sacco di approfondimenti di cose, oggi c'è questa curiosità. Tanto comunque a Taranto, se uno vuole ci va, va sulla notizia di Taranto, la apre, c'è l'indagine, poi sotto ci saranno degli approfondimenti. No, hanno messo solo un titolo e basta, perché ormai non fa più notizia, purtroppo. Ci sono i link correlati sulla destra, l'impianto killer, tutta una serie di notizie, poi prova il caffè, così ci bevi sopra e te lo dimentichi. Ma questo avvicina il giornale online alla Free Press, che per esempio stamattina Siti apriva con la foto dei nudi. Ah, dei nudi? C'è una foto notizia solo su quello, in pratica. Allora, è la questione dei tempi, la Free Press lavora sui tempi e lavora su notizie popolari, c'è anche il taglio, no? I giornali popolari inglesi, non vi dico cose che avete già studiato, perché porterebbe via tempo al resto, ma le sapete già, al limite ne parliamo via mail. Il discorso della Free Press è qualcosa che è costruito con testi molto brevi, titoli non particolarmente grandi, ma titoli più o meno simili tra loro, fotografie. È una costruzione, ma non internettiana, è una costruzione di rapidità di consultazione, nemmeno di lettura, di consultazione. anche perché c'è una questione che è legata alle dimensioni, la dimensione della Free Press è talmente ridotta fisicamente per poterla tenere in autobus o a piedi in metropolitana, per cui non ci stanno tante cose, come non ci stanno tante cose in un home page, che poi l'home page ha svicolato da questo problema facendo degli scrolling lunghissimi che però a volte sono anche eccessivi. Corriere.it iniziò la sua avventura con una staticità di home page che stava tutta nella prima schermata, non bisognava fare scrolling. Poi chiaramente, per ragioni anche lì di pubblicità eccetera, si è visto, tra l'altro la pubblicità qua ti segue, no? Sulla destra ci sono le pubblicità che scendono insieme a te, tu non riesci a liberarti da Arena di Verona, ti continua a seguire mentre tu vai giù. Perché? Perché è un servizio anche questo. Un giornale come Corriere della Sera è diventato un giornale con uno scrolling lunghissimo, addirittura più lungo di quello di Repubblica per certi versi, molto simile, dove non c'è differenza tra, o c'è sempre meno la differenza tra l'edizione online dei due giornali, o comunque tra le due testate online meglio, mentre è enorme la differenza fisica tra i due giornali cartacei, non tanto per le dimensioni che pian piano si sono andate a compattare ad essere simili tra loro, ma proprio per la prima pagina del Corriere, la prima pagina di Repubblica, li avete evidenti sotto gli occhi, mentali, sono due giornali completamente diversi per tipo di impostazione, di scelta, di contenuti, di lunghezza degli editoriali messi in prima pagina o meno, la grandezza delle fotografie, la titolazione, la tradizione del Corriere di avere i tre piani di giornale, Repubblica di averli scavalcati con la finestra sopra il titolo e senza fogliettoni perché lascia spazio alla pubblicità, per cui completamente diverso come pensiero di immagine di giornale. Sul sito adesso noi proviamo a fare una cosa molto alternata, molto rapida, se non ci fosse scritto la testata fate non mi prendo, vabbè. Fate fatica a trovare differenza. Se voi cambiate la testata e cambiate il tipo di carattere, che uno nemmeno hanno tutti e due il Times e l'Arial, non è nemmeno che uno dei due ha usato il Verdana, quindi voglio dire, togliamo la testata e ditemi come fate a trovare le differenze. Sono molto simili, ok? Usano addirittura più o meno le stesse cose, anche il rosso e il blu per gli ipertesti. Quindi giornali completamente diversi in edicola sono giornali online molto simili tra di loro. Perché? Perché il pubblico dell'online non è un pubblico anziano, diciamo, quindi non è il pubblico che compra sempre lo stesso giornale, che va sempre nello stesso negozio, che fa sempre le stesse cose. È per natura curioso, è per natura moderno, chiamiamolo così, e quindi non si fa problemi, si fa una schiera di cose. Per il sito per quello che riguarda l'informazione, segue Repubblica.it, ma se seguisse Corriere.it, se gli capitasse che guarda che lì c'è una rubrica diversa, più divertente, un blog più carino, mettono delle foto più belle, se uno si abitua poi a guardare Corriere.it, lo memorizza, andrà avanti con Corriere.it, non c'è problema, l'offerta è talmente vasta e comunque è soltanto il punto di partenza di un percorso che mi può portare a navigare per i fatti miei e a cercare le cose che voglio, che non ho il dovere della dipendenza o della fedeltà a quella testata, cosa che invece avviene abbastanza quando compriamo un giornale in edicola. Voi fate fatica ad andare a comprare un giornale diverso in edicola, quando vi state per avvicinare all'edicola sapete già che cosa chiederete. Su internet sapete da dove partite, ma non è detto che non andiate a vedere altre cose. In edicola difficilmente vedete il giornale e cambiate idea sulla base dell'immagine che vedete in prima pagina. Ormai avete deciso di comprare quello e lo comprate. ma è abitudine così, non è nulla da dire. A volte capita che, ad esempio, io non compro il giornale perché vedo le cose su internet, per esempio il Corriere della Sera che compro di solito, a volte non lo compro perché il Corriere della Sera per esempio mi dà foto, immagini, video e cose del genere che cioè non mi interessa a volte andare a leggere l'articolo, cioè capita, cioè volevo sapere se era una cosa diciamo così lecita. Lecita ovviamente sì, normale anche che avvenga oggi, tra qualche anno non avverrà più così, perché tra qualche anno se gli introiti pubblicitari non saranno aumentati come devono aumentare, perché pur aumentando a due cifre ogni anno gli investimenti pubblicitari e gli incassi pubblicitari sono ancora ridicoli rispetto ai 70, ai 35, 40, 50 mila euro di una di 30 secondi in pubblicità o di una pagina di giornale nazionale. Qua parliamo di centinaia di euro, nulla di più, migliaia di euro, viene tanto. Siccome sarà impossibile avvicinarsi allo stesso livello, perché comunque i contatti della televisione sono imparagonabili, sarà insostenibile internet se per poter fornire questi servizi. A un certo punto internet andrà pagato, come avviene in buona parte dei giornali americani che, come sempre, sono partiti molto tempo prima, ma se io vado su un sito qualsiasi di un giornale americano, non so, facciamo il New York Times, trovo pochissima pubblicità nell'home page, perché quello, quasi tutto quello che vedo alla fine poi me lo devo pagare. Ti faccio vedere qualcosina, ma tutti i servizi sono tutti a pagamento. Anche video, per esempio? No, video no, non esageriamo, però i servizi che vengono mandati fuori sono quasi tutti poi a pagamento. Quindi da questo punto di vista gli abbonamenti dell'online forniscono anche una serie di alert, di RSS, eccetera. Vedete, guardate qua, questa scritta qua, ti dà la possibilità di abbonarti gratuitamente per 14 giorni. Se volete abbonatevi, così vedrete la differenza. Poi il 14esimo giorno, perché mi spiace, non mi è piaciuto. E provate ogni tanto, incuriositevi anche su queste cose. Avrete la possibilità di capire qual è la differenza tra quello che viene, tra quello che viene dato in diciamo libero e tra quello che. Però vedete come il rapporto con la pubblicità è molto più elegante, diciamo così, molto più, proprio perché i servizi sono messi in altro modo. Ci sono addirittura dei giornali che hanno deciso di, se non di chiudere le versioni cartacee, comunque di ridurre drasticamente il personale che lavora sul cartaceo per spostarlo sull'online. Ma qui stiamo parlando di realtà oggi inimmaginabili in Italia, stiamo parlando di realtà che in Italia troveremo fra 10-15 anni. Sempre però per il ragionamento che tutte le cose che cerco di dirvi abbiano una loro declinazione e valenza anche nella vita personale, pensate, se pensate al giornalismo come una delle vostre passioni, dei vostri obiettivi della vita, iniziate a lavorare su una logica di giornalismo multimediale. Non soltanto è importante saper scrivere, è importante anche saper girare filmati, montarli, scaricare cose, eccetera, eccetera, eccetera. Perché la figura del giornalista multimediale è il futuro del giornalismo, a meno che voi non siate, io ve lo auguro, dei commentatori così autorevoli, degli editorialisti così apprezzati, che invece con la vostra macchina da scrivere scrivete 12, due cartelle di testo nel quale parlate dei destini del mondo o del futuro di un'azienda o di una scelta globale. Però io ve lo auguro, ma dubito che ci sia questa possibilità per tutti di poter fare su 30 commentatori dei giornali dei prossimi 20 anni. Quindi siccome c'è un minimo di possibilità in più legato a quello che è il giornalismo online, considerate anche il modo di scrivere del giornalismo online, le peculiarità, la fantasia, la creatività, l'immediatezza e la curiosità. Per quello che vi dico, non vi fa male anche, limitatamente a quelli che sono sempre i vostri tempi e i vostri modi di approccio al computer, abbonarvi a questi servizi gratuiti dei giornali stranieri, perché sono una miniera di idee innanzitutto, ma vi danno anche la dimensione di come sarà il giornalismo fra 7-8 anni, 10 anni in Italia, perché inevitabilmente sarà così. Non è che uno dice ci scommettiamo che sarà così, perché la diffusione del mezzo computer e anche la sua possibilità di portarselo dietro con i palmari, con i laptop eccetera, la diffusione del wireless e della banda larga, la diffusione del wifi, la diffusione del WiMAX che arriverà già in Italia l'anno prossimo, inevitabilmente porterà il nostro futuro a essere tecnologico in tutto, lo sarà ovviamente anche in quello che è l'editoria, il giornalismo, i mezzi di comunicazione, di informazione, di servizio. Se sabato abbiamo parlato della comunicazione pubblica come di un destino interattivo del modo di relazionarsi tra il cittadino e la pubblica amministrazione o gli enti locali, le istituzioni eccetera, ancor di più questo avverrà su qualcosa che noi cerchiamo, non una cosa che dobbiamo fare perché abbiamo bisogno di un servizio dalla pubblica amministrazione, ma una nostra esigenza di cultura, di informazione, di approfondimento eccetera. Fatelo e facciamolo attraverso queste opportunità che ci vengono fornite. Vi ho voluto far vedere il New York Times, ma vale per qualsiasi giornale, se non lo so, prendiamo il Los Angeles Times, andiamo dall'altra parte dell'oceano, dall'altro oceano. Anche qui vedete che sono siti dove la pubblicità è molto molto molto ben evidenziata e anche molto molto, vedete che sopra c'è scritto che è una pubblicità, c'è scritto che è advertisement sopra a questo qua, c'è scritto perché, ma no, non ce ne sarebbe bisogno assolutamente, si parla di Tiffany. Però è una questione di rispetto del lettore, del navigatore. Questo da noi non avviene ancora, in alcuni casi c'è, ma in moltissimi casi non c'è. Manca una regola, ma manca anche un'etica di chi produce e realizza questi siti. Vediamo se questo è il servizio a pagamento. Se si apre. No, questo è un servizio dedicato, che penso che sia gratuito, sì. Ed è il famoso discorso dei cookies, cioè se tu mi dici che cosa ti interessa, che cosa hai letto nelle ultime edizioni, io faccio in modo di memorizzare le tue scelte e di crearti anche dei percorsi personali per quando vieni la prossima volta a visitarmi, per dirti che cosa, quanta possibilità c'è da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per le agenzie di stampa, queste le vedremo poi successivamente. Questa che è Reuters, che è ovviamente l'agenzia di stampa internazionale più famosa, l'agenzia più grande del mondo. Cos'ha di diverso da un sito di un giornale? Niente, ma nessuno di voi ha mentalmente l'idea di andare a vedere Reuters per avere le notizie, tenendo presente, dimenticando che è Reuters che dà le notizie ai giornali online, perché sono le agenzie di stampa, quindi guadagnereste anche un passaggio, soltanto che sono proprio le notizie molto secche, molto diciamo essenziali che poi diventeranno le notizie. Ad esempio qua c'è la notizia che è arrivata adesso di due soldati americani trovati morti in Afghanistan e di 8 soldati americani uccisi in Iraq. Queste sono notizie che ancora sul sito di Repubblica non abbiamo visto, perché prima devono leggere le agenzie e poi dopo metterle dentro, quindi noi siamo avvantaggiati rispetto a loro. Se noi adesso andiamo a vedere Repubblica, vediamo se c'è un aggiornamento delle 10.02, ma nell'aggiornamento 10.02 nulla appare. E se anche andassimo sul sito dell'ANSA, probabilmente, essendo anche l'ANSA le notizie internazionali, prendendole da Reuters o da Associated Press, ci mancano quelle notizie che abbiamo visto nelle latest news di Reuters. Quindi voi, se volete fare bella figura con i vostri amici, adesso faccio una battuta, voi siete su Reuters, lo sai che è, ma lo sapevo già, perché l'avevo visto prima. Dovete sempre seguire il flusso delle notizie e le fonti delle notizie. Non vi viene in mente l'idea di andare alla fonte, di andare su Reuters a vedere che cosa succede nel mondo? Non sapevate l'esistenza di Reuters? Sì. Io dire il vero, parlo sempre sulla stampa, ma c'è. Ah, bene. E perché lo fai? Per questa ragione? Per questo, anche perché, a parte che l'ANSA, per me, a me, questo è il mio parere, l'ANSA rispetto già alla Viene Cross è in diretta. Io mi sono detto la Viene Cross, per quanto riguarda quella italiana. E poi sì, perché sono abituata, lavorando con giornale, mi sono abituata a cercare le notizie direttamente sul sito della polizia, per cui. Sì, mi fa piacere che lo faccia, però sei una delle poche, credo, in Italia che faccia questo. Chi altri di voi va direttamente sul sito di agenzie? Una, due, no, ci sono, no, siete già una percentuale rilevante, siete 3 su 30, è un buon numero, però indubbiamente sono meno di quelli che vanno a guardare le cose sui, però su delle agenzie parleremo meglio la prossima volta, è proprio diverso completamente, anche legato al discorso proprio di come si fa giornalismo su internet, sulle agenzie. Fermiamoci ancora ai giornali, lo dicevo solo per farvi l'esempio di come sono completamente, così come i siti delle televisioni o i siti delle radio, sono cose che vedremo sempre se avremo la fortuna di ottenere l'aula di informatica, se no ce lo faremo in qualche altro modo. Torniamo a noi, ah, questo è sempre chi ha scritto Repubblica. Allora, siamo alle 10.02, cos'è cambiato? Semplicemente la foto di uno degli incidenti, tanto per continuare nella scelta giornalistica ed editoriale che è stata fatta. E polemiche fra i socialisti, giustissimo. E poi, se andiamo al Corriere, credo che non ci siano anche qui grandi novità, lì era le 10.02, qua addirittura ancora di meno, l'ultimo aggiornamento alle 9.34, vedete, la redazione qua è molto più piccola, la redazione di Corriere.it, vediamo se ci sono i nostri siti, scrivici, perché dovrei pubblicità, no? Ma non c'è nemmeno il... anche perché i contenuti del sito di Repubblica, del Corriere, vengono fatti da una società interna, RCS, ma che non è poi fatta di giornalisti. Di giornalisti sì, ma non tutti, quindi non hanno piacere a far sapere chi sono del tutto. Era la vecchia Condé Nast come casa editrice. Però non si trova, vedete, non c'è aggiornamento, cioè non c'è testata raccontata. Allora, per quello che riguarda le ultime cose che dobbiamo dire importanti per quello che riguarda i giornali online è appunto la possibilità di ricerca e la possibilità di aggiornamento. Solitamente i motori di ricerca sono interni, nei casi dei giornali italiani si è scelto di privilegiare dei partner, Repubblica sceglie Yahoo e Corriere sceglie Google, e c'è la possibilità di cercare sia, come sempre accade, dentro un giornale online e fuori. Una possibilità invece importante, che è abbastanza innovativa per quello che riguarda l'informatica, sono i feed RSS e XML, cioè quelli che ti danno la possibilità di ricevere gli aggiornamenti dei testi, dei video, direttamente scaricando una serie di, scaricando un programma molto leggero che viene inserito sul proprio computer. Voi usate questi feed per essere aggiornati? Anybody? Nessuno li usa? Nel Mac ci sono già installati. Nel Mac ci sono installati, sì. Però visto che il Mac soddisfa il 3% della popolazione mondiale, l'altro 97% è tradizionalista, quindi non se lo deve fare. Nessuno di voi ha caricato gli RSS ad esempio sul suo blog? Sapevate dell'esistenza di questo scrittino arancione che appare sui siti? Nel blog erano già preconfezionati, però non ho mica capito come funzionare. Semplicemente ogni volta che tu posti una nuova cosa, chi è iscritto, chi ha si è iscritto al tuo blog e ha la possibilità di avere feed RSS, gli arriva una informazione che è stata aggiornata, non deve andarlo a fare. Questo vale anche per gli aggiornamenti, uno non deve andare a cercare sempre che c'è l'aggiornamento, non è che dalle 9.34 alle 10.25 dice perché non c'è l'aggiornamento, ogni due minuti va a cliccare, se si scarica gli RSS, vedete? Ti manda direttamente le novità, non devi nemmeno andare a cliccare sul sito. Non era nulla di pericoloso andare a cliccare sopra, potete rischiare ogni tanto di cliccare sopra le cose che vi sembrano strane, che appaiono sui computer. Comunque fatelo, perché è un modo semplice, è un modo fatale, semplice e fatale, semplice perché vi permette di avere aggiornamenti, fatale perché sanno tutto di voi, sanno quando vi mandano le cose, quindi quando le aprirete, quando non le aprirete, vengono fatti esattamente per quello, non solo per fornire un servizio, però forniscono un servizio, ok? Comunque studiateli, perché poi ve li chiederò. Fanno parte, vedete che qua ci sono tutte le, è inutile che vi spieghi io cos'è, vi leggerei quello che c'è scritto qui. Lo trovate su qualsiasi sito, cioè se noi andiamo sul sito di Repubblica troviamo ugualmente l'RSS che dovrebbe essere qua. Per quello che vi dico che non avete bisogno del libro di testo, semplicemente avete bisogno di usare il mouse per scoprire le cose, quindi quando vi chiedo cos'è un RSS vi fate un copia e incolla di questo, lo stampate sul foglio, avete risolto il problema. La stessa cosa vale per i... perché servono gli aggregatori, si chiamano così in termine tradotto italiano, ci sarà scritto, sì, un aggregatore. Cosa succede? Gli aggregatori permettono appunto di non far perdere tempo su internet. Tu sai che vuoi un RSS sullo sport, lo vuoi su tutto, lo vuoi su una piccola sezione, lo vuoi su un piccolo caso in particolare, ti abboni gratuitamente, ovviamente perché è tutto interesse di chi ti fornisce il servizio, anche se all'inizio gli aggregatori erano a pagamento, come i blog erano a pagamento, come i siti erano a pagamento, lo sono sempre meno, tutto era a pagamento. Adesso è la fase del tutto gratis nei servizi ad alta tecnologia, per fare in modo che poi ci sia un'ulteriore fase in cui sarà di nuovo tutto a pagamento. Una volta che tutti saranno caduti nella rete di essersi abbonati a tutte queste cose per poter avere nuove evoluzioni, nuove cose, servizi di nicchia, sempre più di nicchia, saranno a pagamento. È un è un continuo prendere o lasciare da questo punto di vista il mercato dell'informatica e dell'online. Servono, vedete, poi ecco, ci sono anche sulla colonna di destra, ci sono scritti quelli che sono a pagamento e quelli che sono gratis. Questa è una, diciamo che è una buona pagina di lettura e di studio. In questo modo si ha la possibilità appunto di perdere il meno tempo possibile navigando e di avere le informazioni online in tempo reale, esattamente perché parte una mail o parte un'iconcina, se avete un sito personale, eccetera, questo, nel quale vi appare l'RSS. La stessa cosa, voi potete lanciare un segnale dal vostro blog quando postate, se chi si è iscritto ha scaricato l'RSS che c'è in alcuni template viene trovato, ha la possibilità di sapere che quella persona ha messo un nuovo contributo oppure lo ha ricevuto. Ci sono anche le possibilità di mettere quelli che vengono messi da chi gestisce il sistema e quelli che sono quelli dei visitatori e così via. Il discorso degli aggregatori è importante perché permette di crearsi un proprio mondo di informazioni. Io posso decidere di prendere un RSS legato allo Sport della Repubblica, un RSS legato alla musica dal Corriere, un RSS legato all'economia dalla Stampa. Mi creo il mio mondo di informazione, mi creo il mio palinsesto di conoscenze. Questo è molto importante anche per poi crearsi dei propri spazi personali, che siano i blog, che siano per farsi delle ricerche anche. Magari ci sono delle situazioni nelle quali si sa che l'Unione Europea sforna una serie di servizi, la Commissione Europea sforna una serie di documenti che ci interessano. Chiaramente stiamo parlando di cose che hanno tempistiche diverse, mesi, settimane, eccetera, però se non mi dimentico che quello devo andare a cercare, mi abbono al servizio di quello che mi manderà l'alert che è uscito quel documento. A volte in questi casi, quando parliamo di istituzioni, non ragionano con l'RSS ma ragionano con delle sorte di servizi di mail e di alerting, dicono sta per uscire, ti abboni a questi servizi gratuiti e te li mandano. Se uno vuole, una volta che si perde una settimana a registrarsi tutta questa serie di servizi, alla fine non deve fare più nulla, gli arriva tutto direttamente. Cioè da mettersi lì a scegliere le cose eccetera e mettersi l'anima in pace, il cuore in pace, che la vostra vita da quel momento sarà totalmente sotto controllo, nel senso che tutti coloro ai quali vi siete abbonati hanno la vostra traccia, la vostra, però tanto comunque le tracce ce l'hanno in ogni caso quando entrate a navigare, quindi c'è un po' da farsene una ragione o comunque da sfruttare al massimo e meglio le possibilità e le opportunità che ci sono. Tra l'altro l'RSS permette di guardare le cose sì in tempo reale ma anche poi di scaricarle quando le si vuole, per cui è anche una questione di tempi. In questo momento non posso, non mi interessa, lo guardo dopo. E questo è il ragionamento che riguarda anche i podcast. Voi sapete cosa sono i podcast? Non sareste venuti all'università se sapeste tutto. Non potete non sapere cosa sono. Qualcosa di più? L'ho visto su iTunes, scappato, iTunes che hanno il programma del Mac, che ha, io l'ho capito. Allora, ce l'hanno già. Il podcast è esattamente simile all'RSS con una concezione che è legata ai file multimediali. Cosa succede? Succede che no, mi sono perso la puntata di Viva Radio 2, mi sono perso DJ Time, mi sono perso il telegiornale, lo volevo vedere, io lo posso scaricare in podcast, cioè lo posso vedere andando sul sito, posso andarmi a vedere in podcast quella trasmissione scaricandomela e vedendomela. Non devo essere per forza in diretta, o me lo sono perso, è un videoregistratore virtuale. Non avete mai usato il podcast? Mi iniziate a preoccupare. Vediamo sul sito della RAI. C'è anche qui su ISO, c'è anche qui una cosa. Farai si è già piantata subito. Problema. È morta la Rai. Informiamoci. La Rai non ci vuole andare. Andiamo. La Rai non vuole farsi vedere. Andiamo su. Non avete mai guardato il sito di DJ? Qualcuno l'ha, datemi un, fatevi vedere che siete vivi. Qualcuno ha visto il sito di DJ una volta nella vita? Questa scritta non vi ha mai incuriosito? Pensavate a cosa? Che fosse una cosa che vi creasse problemi etici sul canale? Vodka, no! Se voi volete scaricarli, li scaricate attraverso appunto. Vedete, questo è il limite dell'informatica. Non è una colpa di, cioè, se io voglio scaricarmi un video qua mi abbono e quindi li avrò tutti, qua lo guardo oppure guardo i video, voglio fare non è caricato Windows, qua bisogna, non è caricato su questo computer il file MP4. Vabbè, comunque se aveste un computer normale il percorso è abbastanza semplice, vi potete scaricare, vediamo di andare su quello del Corriere, vediamo che sono podcast semplici, vi potete scaricare i programmi che non avete visto semplicemente. No, era su qua o su Repubblica? Su Repubblica. Vedete che tra l'altro ci sono di nuovo quelli dei DJ. Qua però bisognerà, sono gli stessi, però bisogna scaricare i. Vediamo quelli di Repubblica Radio TV, va? Bisogna salvarlo perché se lo troviamo. Comunque, avete capito il meccanismo? Sono semplicemente dei registratori, dei videoregistratori, dei file. Vale lo stesso per concerti, canzoni, vi siete persi qualcosa? Li trovate, li scaricate, serve per le edizioni dei giornali, dei telegiornali, quindi anche da un punto di vista informatico c'è la necessità di sintetizzare, mettere, fare la scaletta, prepararli, c'è tutto un lavoro redazionale dietro, è sempre il discorso del futuro che vi aspetta fuori di qua, anche questo è un mestiere. Lavorare nell'informatica legata al giornalismo da questo punto di vista presuppone comunque che ci sia una mente, una testa dietro, non è soltanto tecnologia. Lo stesso discorso vale per lo streaming è invece il poter seguire in diretta le cose, se il podcast è quello che è in registrata, lo streaming è in diretta. La differenza tecnica tra il link video che è all'interno di un testo e il podcast? Se il podcast è proprio dedicato, ha una qualità migliore, te lo puoi portare, te lo puoi mettere sul tuo desktop, te lo puoi usare diversamente, è proprio un pezzo di programma che viene dato a te, l'altro è un file. Okay. comunque vale sempre lo stesso discorso. Vedete qua c'è scritto podcast, poi c'è scritto che cos'è, come funziona, come attivarlo. Io quando vi dirò che cos'è, come funziona, come attivarlo, voi sarete bravi, avrete imparato a memoria queste cose, sperando anche che vi siate nel frattempo innamorati di usare queste varie situazioni. Anche perché sul discorso delle radio in particolare dovremmo fare un ragionamento a parte che riguarda proprio il fatto che le radio si sono evolute e sono diventate radio televisive, nel senso che sono o finite sul satellite o appunto finite sul web, ma hanno riportato dentro hanno portato dentro l'immagine. No, qua non riusciamo a... Vediamo. Non è applicato, non è caricato il sistema, ci metteremo troppo. Vabbè, comunque. Avete capito come si fa? Questo è un grande sito, bisognerebbe fare i complimenti a chi ha fatto questa serie di icone qua. Sciagurato. Mamma mia. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi. Vediamo a che punto siamo negli aggiornamenti. L'aggiornamento alle 10.30, quindi è quello di prima. Non ci sono novità sostanziali, vedete? Quindi il fatto anche degli aggiornamenti è un discorso relativo. Il giornale online, perché sto insistendo a farvelo vedere così tante volte? Perché quando noi, per abitudine ma anche per tempi, non stiamo sempre davanti al computer, quindi non guardiamo gli aggiornamenti ogni 5 minuti, lo guardiamo ogni 2 o 3 ore, ogni al mattino, alla sera, al giorno dopo. E come vedete lo dimostra il fatto che gli aggiornamenti non sono così frequenti, come sono invece, come ci si aspetterebbe dovessero essere da un sito di un giornale online. Quindi, un'altra cosa importante, poi ci avviamo a chiudere, che riguarda il giornale online in Italia soprattutto, è quello di non avere testi dedicati. Abbiamo parlato che non ha testi, nel senso che i testi sono in realtà soltanto delle parole quasi tutte ipertestuali, ma non ha quasi testi dedicati, o ha rapporti contrattuali con agenzie che forniscono le notizie, o riprende l'edizione cartacea con i testi e i commenti, ma diversamente non troverete mai o quasi, ma veramente direi mai, testi scritti dai redattori che fanno parte o dei direttori delle testate online. Non c'è ancora la cultura di un giornalismo online, perché ancora non esiste una scuola di giornalismo online, semplicemente perché il giornalismo online è un modo diverso di scrivere rispetto al giornalismo, per una serie di ragioni che sono quelle che vi ho detto in parte oggi, ma anche per una serie di competenze. Perché io, se scrivo in un certo modo sul giornale online, devo tenere presente chi mi leggerà, un lettore che è disponibile a leggermi fino a un certo punto, cioè di fidarsi di me fino a un certo punto e poi andare per la sua strada a cercarsi il resto delle informazioni. Quindi devo essere io capace di sintetizzare al massimo le informazioni di base e a fornirgli io gli altri elementi o comunque le altre guide a. Troverete difficilmente un testo ipertestuale di un giornalista. Trovate dei testi cartacei che vengono messi online e quindi sono una sbrodolata di testo. Poi in fondo, se vuoi saperne di più, un approfondimento, guarda anche link correlati, eccetera, eccetera. Non c'è un deep linking che parte da subito. Il deep linking, cioè una cosa che ti porta direttamente a quel testo, a quell'approfondimento, a quel nuovo mondo, a quella cosa che ti interessa. C'è soltanto laterale, perché non esiste un modo di scrivere il giornalismo online, perché non c'è un modo in cui un giornalista oggi sappia essere completo, di essere quello che scrive quello che sceglie le immagini, quello che sceglie i filmati, quello che magari interpreta i filmati e le immagini, lo sono alcuni reporter americani che sanno fare molto bene come blogger il loro lavoro e che scrivono, fotografano, filmano e mettono tutto insieme. Ma è un lavoro che oggi, paradossalmente, pur essendo così completo, in Italia verrebbe considerato un lavoro di serie B. Alcuni programmi televisivi in Italia dove si fa giornalismo d'inchiesta con le domande e la telecamera e si intervista e si fanno le domande, ce ne sono da Report e altri, sono visti ancora con una sorta di fastidio, diciamo, dal giornalista tra virgolette tradizionale, perché il giornalista deve solo scrivere. Il fatto che alla RAI i cineoperatori siano giornalisti professionisti, cioè coloro che fanno, che girano con le telecamere, cosa che avviene solo alla RAI, è una, ad esempio Mediaset o la 7 usano dei service, cioè usano delle strutture professionali esterne che fanno di mestiere gli operatori, non sono giornalisti. Alla RAI, per una ragione contrattuale sindacale, sono stati, hanno fatto l'esame di Stato, sono diventati giornalisti professionisti, ma vengono visti con una sorta di sufficienza dal giornalista scrittore, chiamiamolo così, perché non si capisce, non si capiva, ancora non si capisce quanto oggi il valore dell'immagine sia testimonianza a volte più di 5 cartelle di scritto, perché fa, anche lo spiega poi l'online, fa molto più impatto, dà molto più senso della del livello giornalistico, della qualità giornalistica di una cosa, l'immagine, il fotogramma, la scelta, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista, sempre per l'impegno che ci siamo presi, cioè di trasformare anche le lezioni come una cosa che sia utile per individuare o per selezionare meglio quelli che saranno i percorsi della vostra vita professionale o comunque nella vostra vita, tenete presente che la figura del giornalista specializzato, cioè del giornalista di internet, in realtà non esiste. Se voi sapete porvi, anche in questo caso, come chi sa essere multimediale, siete in grado di girare, di fare un articolo e contemporaneamente girarne gli effetti o gli aspetti fotografici o di video, è un vantaggio. Cioè nessuno di voi viene a lezione con la telecamera e riprende quello che facciamo. Paradossalmente può essere un errore, perché se poi uno all'esame dice: guarda, io ho seguito le sue lezioni, ma piuttosto di seguire le sue lezioni ho montato 30 minuti di quello che per me è stato questo corso. Ha molto più senso, dà molta più la dimostrazione di aver seguito le cose, non che non le seguiate, ma c'è innovazione dentro e c'è una logica. E poi poi ho caricato il video e l'ho messo sul blog. Io non ho problemi di diritti d'autore di quello che dico e né mi vergogno di quello che dico, per cui io non potrei che essere contento di una cosa del genere. Vi faccio un esempio al quale probabilmente non avevate pensato, non per colpa vostra, ma perché siete abituati a ragionare in un'ottica universitaria che è quella di, cioè, una persona da una parte, ci siamo noi dall'altra, ma non siamo noi a poter interagire, a poter fare le cose, giusto? Quindi tenete presente tutte queste situazioni, perché è il famoso ragionamento per cui non si può fare oggi all'università ancora una tesi che non sia cartacea. Si può fare, accompagnare la tesi cartacea a un documento, a un file, eccetera, ma bisogna che ci sia tesi cartacea. È una totale limitazione delle cose. Se uno dice: faccio un film, voglio vedere come me lo possono non considerare soprattutto in una facoltà. È chiaro che se a medicina e chirurgia va a fare tutte le situazioni da Grey's Anatomy, allora capisco, però da un punto di vista di scienza della comunicazione dovrebbe essere lasciata libertà di creare poi il percorso finale, a seconda poi della materia, del professore, del docente con cui si decide di lavorare. Ma queste sono visioni personali che sono mie e non pretendo che siano vostre. Allora, dicevo quindi, per quello che riguarda la figura del giornalista multimediale, adesso chiudiamo davvero, tenete presente che non esiste, è semplicemente una rielaborazione di mestieri e di professioni che sono attualmente sul mercato, cioè il giornalista che viene e dice guarda non c'è più posto per te in redazione, vai al sito internet, oppure ti prendiamo intanto al sito internet, poi se sarai bravo ti prenderemo al giornale, vai a fare quello perché abbiamo chiuso quella realtà, allora per non mandarti a casa ti cambiamo contratto e fai quello. Non c'è una selezione naturale, se non adesso, sta iniziando adesso, ma nei primi anni, cioè quelli che hanno portato poi alla definizione di questi giornali online, non c'è stata una scelta di base di creazione di queste figure professionali. Sono persone abituate a scrivere e non abituate a proporre un ventaglio di cose. Quindi, essendo persone abituate a scrivere, fanno fatica, semplicemente lavorano da desk, cioè da redazione, a mettere i pezzi delle situazioni insieme, ma non riescono a produrle, un po' perché ci sono anche problemi di quantità, oltre che di qualità di persone nelle redazioni, ma anche e soprattutto perché manca la professionalità di saper anche fare il video, fare l'immagine, montarla, e quindi è tutto un mestiere ancora in via di, non tanto di definizione, ma in via di costruzione, in via di ampliamento anche da un punto di vista professionale. Questo avviene, al contrario, negli altri paesi avviene sul testo, perché parliamo soprattutto del giornalista che scrive online, nei testi, scrive testi più brevi, chiaramente, più documentati, più si va nella nicchia. Siccome il giornale cartaceo è destinato a un pubblico che compra le 40 pagine anche se magari gliene interessano 3, ma deve mantenere un linguaggio generalista, il linguaggio del giornale online è un linguaggio che si specializza via via che si va nel piccolo, che si va nella nicchia. Più si va nella nicchia, più si va nella sezione dedicata, più si va nell'approfondimento, più si va nel link, più il linguaggio è rivolto a coloro che sono arrivati fino a quel punto. Quindi ci sono una serie di linguaggi specifici, specializzati, particolari, curati, che aprono anche poi una forma di relazione. Perché? Perché una regola, cosa che adesso inizia a esserci anche sui giornali, una regola che non sempre troviamo è quello che chi scrive online e poi alla fine dell'articolo metta il proprio indirizzo mail, in modo da poter avere un rapporto con chi lo ha letto. Voi adesso iniziate a vedere che sui giornali, chiamiamoli tradizionali, sotto la firma, sotto il nome e il cognome c'è anche spesse volte l'indirizzo web, cioè l'indirizzo di mail. Serve per darsi un tono, ma serve anche per far vedere che si può parlare, si può scrivere a questa persona, si può commentare quello che questa persona ha scritto. Come regola, soprattutto nei siti stranieri, di chi scrive, in Italia meno, lo succede solo nei blog, ed è un errore anche questo, chi scrive articoli su giornali online non ha poi la possibilità di mettersi in relazione con le persone stesse che hanno letto quell'articolo. Quindi anche questo è un tema sul quale bisogna riflettere, una delle differenze forti che c'è. Ci siamo quasi. Avete domande? Vi è tutto chiaro? Sicuri? Se siete così sicuri io posso anche chiudere qui. Vedete che nei flash non sono ancora apparse quelle notizie dall'Afghanistan e dall'Iraq. Vediamo che il Corriere, l'ultimo aggiornamento ce l'ha alle 10.41, ma in pratica non è un aggiornamento, ha fatto c'è la notizia che l'incarico verrà dato il 17 maggio, cosa che non c'era in precedentemente. Qua, a parte questi stesi per terra che sono sempre lì, direi che non ci sono, c'è addirittura la fotosequenza. A questo punto facciamo i voyeur, andiamo a vedere la fotosequenza. La piazza vuota, ma questa che piazza è? internazionale. Ecco, no, non abbiamo parole. Questo è lo Zocalo in Città del Messico, in effetti è grandina, va bene. Ok, io vi lascerei qui se non ci sono dubbi ulteriori e me ne vado a Roma.